Allora, ora proviamo a fare questa chiamata in diretta con questa compagna di zona orientale. Probabilmente sì, tipo gli old vanno in giro spesso per l'Italia all'estero, giocano ovunque, non si sa quante partite fanno, fanno più partite della FIR. Mandale un messaggio qua 38 Molti salvano Pasqua come Vodafone non risponde. Ciao, ci senti? Ciao, ci senti? Auguri Stella! Grazie, va bene. Grazie per gli auguri. No, no, gli auguri ho fatto il compleanno mercoledì, grazie. No, allora, come detto, volevamo farci un po' spiegare da te questo progetto che state portando avanti all'interno dell'ICAT di Eboli con i detenuti. Sì. Allora, è un progetto che è nato dall'idea di Silvano Minelli, che è stato giocatore e allenatore molto conosciuto nel Salernitano, e che è venuto a mancare poco prima che questo progetto andasse in porto. Per cui l'ha raccolto Maurizio, che è l'allenatore della nostra Seniores, e con la, chiedendo la nostra collaborazione ci siamo ritrovati, insomma, all'interno. Prima abbiamo provato al carcere a Forni, che è molto più grande, più di 500 detenuti, ma lì per motivi disorganizzativi non nostri non è andato in porto, e quindi siamo dedicati a questa realtà più piccola che è l'ICAT di Eboli, che è una casa di reclusione, e quindi praticamente lì si trovano persone che hanno da scontare più di 5 anni e per la maggior parte ex tossicodipendenti che hanno commesso crimini a causa, insomma, legati alla droga. E che dire, che praticamente quando siamo arrivati eravamo un po' preoccupati, no? La prima volta tante misure di sicurezza, però c'è stata una bella accoglienza da parte dei ragazzi dopo un mese di lavoro, da che non riuscivano neanche a capire come passare la palla, le prese in giro su questa forma così o particolare di questo pallone, possiamo dire che adesso attualmente potrebbero tranquillamente giocare una partita anche loro. Si sono molto impegnati, sono scesi a tutti gli allenamenti con tutte le difficoltà del caso, perché loro hanno un campo piccolissimo che è praticamente cemento coperto da un finto strato di erba. E anche questo, come quello della Stella Rossa, dicono i qui presenti. E quindi questo ci rende un po' difficile poi fare un allenamento completo, nel senso che con il contatto, i contatto dei tappetini, però le partite le facciamo a touch oppure al massimo a bloccare. E una cosa molto bella è che nel campo ci andiamo anche io e altre due compagne di squadra, e molti ci hanno fatto la domanda: vabbè, siete donne, andate all'interno del carcere, bla bla bla, le solite cose. In realtà ci hanno fatto veramente come dire, senza pregiudizi, senza remore. Noi facciamo educazione al contatto, non all'affettività, eh? Vai. Noi facciamo educazione all'affettività, no, nel rugby, quindi il contatto a terra, il contatto con l'altro. Qui stiamo facendo anche educazione al contatto con l'altro sesso, diciamo così, già che lì sono tutti uomini, molti ridendo ci hanno detto non vorremmo una femmina racingana, per dire, però anche questa è un'esperienza molto molto bella che rompe tanti pregiudizi, visto che parliamo tanto di antisessismo e cose varie. Lì dentro ne ho trovato quasi zero rispetto a fuori, e ci tenevo a dire molto questa cosa. E per settembre abbiamo pensato di organizzare un piccolo campionato interno tra la zona orientale e loro, dividerci in varie piccole squadre, perché poi più di quattro in quel campo non si può giocare, in modo da dare un stimolo ulteriore per portare avanti questo progetto. Non so se avete domande. Faccio una domanda io, Stella Rossa, con che periodicità andate lì con i ragazzi? Settimanalmente oppure più frequentemente di quello? No, andiamo due volte a settimana, una volta di mattina e una volta di pomeriggio per 2 ore al giorno. Questo è anche un altro punto dolente, perché in pratica loro hanno degli orari molto... hanno molti limiti, e alcuni hanno, devono cucinare, altri che hanno l'articolo 21 lavorano, per cui su 2 ore riusciamo a fare 1 ora e 20, no? Perché tipo alle 6 cena, noi facciamo dalle 4 alle 6, alle 11 e mezza pranzano, e il nostro orario è dalle 9 e mezza alle 11 e mezza, quindi bisogna anche adattarsi tantissimo a tutte quelle che poi sono... le richieste che vengono fatte anche dalla direzione, e quelli che sono anche i compiti dei ragazzi che devono svolgere. Ho capito, quindi non c'è la possibilità di fare una cosa congiunta con gli allenamenti normali della ZO? Con elementi? Non ho capito. Con gli allenamenti normali, quindi quelli serali, immagino, della ZO. Dovete fare una cosa specifica? No, è impossibile. Allora, praticamente nel nostro gruppo non ci sono permissandi, cioè non ci sono ragazzi che hanno permessi di qualunque tipo, e quindi loro non possono assolutamente uscire fuori dal carcere. Per cui gli allenamenti questi sono. Amen. Ci stiamo, insomma, proponendo proprio noi come gruppo di riuscire ad ottenere un passo in più, qualcosa in più, però intorno più settembre, ottobre, anche perché da pochissimo è cambiato anche il nuovo direttore. La direttrice che c'era prima era una persona che credeva molto nel senso rieducativo del carcere, insomma, di fargli fare cose ai ragazzi che sono lì. Questo non lo conosciamo ancora a tutto inizio. Quindi noi ci proponiamo, insomma, di prendere altro tempo, di far vedere che, insomma, i ragazzi partecipano, che sono pronti, e vedere se si riesce ad ottenere di poterli portare anche soltanto una volta al mese sul campo. Anche se in realtà ho ricevuto una guida e ho scoperto che all'articolo 21 potrebbe anche venire a lavorare, ad allenarsi sul campo con noi, e questa è un'altra cosa, insomma, che abbiamo messo nel cassettino delle cose da realizzare. Ciao, ecco, se hai finito, scusa, io sono Lorenzo dei Cinghiali di Bologna. Sì. Senti, volevo, allora, intanto mi viene in mente questo discorso del carcere, che noi come Cinghiali eravamo andati a giocare con la squadra Giallo Dozza, che sono appunto, sì, la squadra del... Si sente? Sì? Vicino, troppo vicino? Okay, sì, vicino. Qui vicino, ok, grazie. Va bene. Cioè, abbiamo anche il microfono da... Vabbè, praticamente eravamo andati a giocare col Giallo Dozza, e sì, si possono fare partite con il carcere, ovviamente, se il direttore o la direttrice del carcere è d'accordo, e possono entrare solo chi non è pregiudicato, cioè chi non ha condanne pendenti, eccetera, eccetera. Solito discorso, sì, del casellario. Però vabbè, dici che il campo comunque è piccolo, riescono a giocare al massimo in 4-5, cioè c'è un terreno così piccolo. Però comunque sì, è stata una bella esperienza per noi giocare in carcere, quindi si è riuscita a battere questa strada e far entrare qualcuno della ZO, magari fare degli allenamenti congiunti, sarà sicuramente una bella cosa. Scusami. No, beh, questo per dire che è molto, molto stimolante come progetto, è un bel discorso, e il fatto che tu vai a allenare in carcere, siccome qui in questa assemblea parleremo anche di formazione interna al rugby popolare, e sì, cioè sembri molto sul pezzo, e cioè se ci sarà una formazione a me farebbe piacere sentire cosa hai da dire a riguardo, ecco, per il discorso appunto del... Sì, per i vari punti che hai sollevato, ecco, nel corso di questo intervento. Volentieri. Ci arriveremo anche a parlare anche di quello. Comunque, grazie per aver presentato questa esperienza. Grazie a voi per averci dato l'opportunità. Ciao, io sono Duilio, anch'io della Stella, però primo stavo a Torino e volevo anch'io portare un po' un'esperienza di gioco contro una squadra del carcere. Io ho giocato più volte contro la Drola, che è la squadra del carcere di Torino, alle Vallette, e diciamo, volevo anche porti una domanda su qual era l'obiettivo di questo progetto. Cioè, il primo obiettivo mi sembra sia chiaro a tutti, ma l'obiettivo, diciamo, sportivo, se avete intenzione di provarle a portare appunto in un campionato che sia fuori dal carcere, perché diciamo, a Torino funzionava che c'era questa squadra in C2, ovviamente le giocavano tutti in casa, e io ho un'esperienza opposta: a giocare in carcere è una merda, perché sei in carcere è una merda, proprio una merda. Però la cosa bella, ed è il motivo per cui ti facevo questa domanda, è che sebbene tu abbia l'angoscia quando entri, ne esci col sorriso, perché soprattutto il terzo tempo per loro è una boccata d'ossigeno incredibile. Quindi tu raccontavi questa boccata d'ossigeno di portare gente da fuori, anche delle ragazze, no? Che è una cosa molto importante per riportarli un po' una vita di fuori, una vita normale, un po' più libera. L'altra, cioè, la cosa che a loro piaceva, avendo parlato con i ragazzi che stanno dentro molte volte, era proprio il fatto che venivano squadre diverse, riuscivano a parlare con gente diversa, che non è una cosa banale quando sei detenuto. Quindi, cioè, se riuscite a porvi come obiettivo quello di far giocare in un campionato, per loro sarà un regalo incredibile, ecco. Quindi, insomma, volevo chiederti se c'è questa intenzione o se è ancora troppo preliminare come progetto. Allora, sicuramente questa intenzione c'è, tant'è che, come ho detto prima, cominciamo in piccolo con un mini campionato tra noi. In realtà non fa sapere che verranno giocatori della zona orientale, sono stati super potenti e anche preoccupati, perché pensano che arrivano gli All Blacks invece arriva la zona orientale, come diranno. Sì, ci piacerebbe fargli fare il campionato, però è lunga la prospettiva. Nel senso che loro non hanno il campo interno e fuori non possono uscire, quindi dobbiamo trovare un po' di escamotage, insomma. Il progetto dura 6 mesi sulla carta, ma noi lo prolungheremo e vediamo un pochettino di permettere anche a loro, insomma, di vivere l'esperienza che vivono altri detenuti in altre carceri d'Italia, e quindi potergli far fare veramente un campionato. Questo sì, è un sogno che proveremo a realizzare, abbiamo bisogno di un po' di tempo. Ciao Angelica, sono Tommaso della Dinamo e ti abbraccio, sì, poi tra. Ciao. E niente, io volevo portare anch'io la mia esperienza di partita all'interno del carcere delle Vallette. Era stata un'esperienza molto forte, era stato, anzi, abbastanza terribile, perché abbiamo giocato tutta la partita con una volante della polizia che girava intorno al campo. E però sì, come Duilio, anch'io devo dire che il momento del terzo tempo era stato veramente un momento speciale e importante, e a me aveva lasciato molto nel mio percorso di crescita, devo dire. E niente, io volevo chiederti un po' se ci raccontavi quali sono stati appunto un po' le difficoltà di avviare questo progetto. Appunto, hai detto che prima vi siete rapportate con un altro carcere, ma questo non è andato bene. Cioè, chi sono un po' gli interlocutori, da chi dipende la possibilità di avviare un progetto del genere? Molto dal direttore, dalla direttrice, o ci sono altri elementi? Allora, quando siamo andati a fondo, il progetto non è andato in porto, perché quello è un carcere ad alta sicurezza, all'epoca non era proprio gestito, diciamo, benissimo, e penso che sia ancora così. Tant'è che, non so se ricordate, quando ci sono state le rivolte in carcere durante la pandemia, la prima è partita da là. Noi ci siamo andati perché comunque ci avevano chiesto di occuparci della sezione femminile, e poi è naufragato tutto. Sicuramente la direttrice e il direttore hanno una grande voce in capitolo, però bisogna confrontarsi anche con l'area educativa e con quella, insomma, della polizia penitenziaria. La cosa principale è che a chi porta il progetto creda appunto in queste cose, che possa essere progetto di rugby, di teatro, insomma, che non reputi la casa di reclusione come un luogo di punizione e basta. Quindi devono avere un certo tipo di formazione, e ti posso assicurare che non ce l'hanno tutte le persone che abbiamo incontrato. Però se hai dalla parte tua il direttore, il capo dell'area educativa e il capo della polizia penitenziaria, allora è molto facile tra virgolette, insomma, la strada è un po' più spianata. Rispetto a come è accaduto a Forni, che ad esempio c'era il capo della polizia penitenziaria che era super preoccupato e non reputava una cosa da fare, insomma. Quindi sta tutto molto nella sensibilità di chi hai di fronte, perché se loro ci credono poi ti aiutano anche a sbrigare tutte le parti burocratiche, che sono la parte più scocciante, noiosa, a volte incomprensibile, però si deve fare. Tipo, noi entriamo, dobbiamo lasciare il telefono, dobbiamo lasciare la targa della macchina che entra, per fare foto video, non basta partire dall'autorizzazione, vanno mandate al direttore, la direttrice che le deve vedere, e poi ti dà l'autorizzazione, insomma, per farla vedere ai ragazzi, perché noi mettiamo tutto su una pennetta, che loro sono anche molto vanitosi, tra virgolette, allora si fanno le foto, si fanno i video, vogliono vedere come sono bravi, e quindi io gli metto tutto su una pennetta e loro la sera se la guardano, così come anche le partite di rugby, video presi da YouTube, insomma, a parte la parte pratica, gli mettiamo anche una parte teorica, in modo che possano impiegare il tempo anche a guardarlo un po' di rugby. Pronto? Orenici, sono Domic di Genova, della Massa. Ciao. Oh. Ciao. Volevo chiederti, farti una domanda un pochino più tecnica, nel senso, è un po' una paturnia nostra, diciamo, un pensiero nostro, però noi, diciamo, il contatto che abbiamo avuto iniziale con la Massa è stato prevalentemente con i ragazzi stranieri, immigrati, che facevano parte dei progetti SPRAR, quando esistevano ancora. E quello che ci premeva all'inizio di questi progetti era riuscire a dare continuità, quindi organizzarsi in modo tale da sapere di dare continuità al progetto per far sì che non fosse troppo leggero il quest'anno ci riusciamo, l'anno prossimo non abbiamo le forze, vedremo come va, e se non si riesce finisce il progetto. Cioè, capivamo l'importanza di dare continuità a un progetto per far sì che non fosse soltanto un po' sull'onda dell'entusiasmo di un anno. Immagino che comunque un'utenza come i carcerati abbiano anche questa necessità, ossia credo che si attacchino con le unghie e con i denti a tutti quelli che sono progetti per cercare di riuscire a viversi meglio la detenzione, che possano essere dei progetti di laboratorio piuttosto che sportivi. Quindi la domanda tecnica era: prima di cominciare questa cosa, voi avete fatto proprio un progetto stilato in anni di sviluppo, diciamo, cioè vi siete dati un target di qualche tipo, cioè questa cosa la facciamo e almeno per 4 anni dobbiamo essere in grado di portarla avanti, cioè rispondere a un'esigenza del se l'anno prossimo non ce la facciamo non è così facile dire scusate ragazzi ci siamo sbagliati, quest'anno siamo nella merda e non riusciamo a farlo. Quindi volevo proprio farti una domanda tecnica su questo, cioè il tipo di progetto che si è aperto ha contemplato una scadenza, diciamo? Sì, noi ci siamo venuti come scadenza, abbiamo presentato il progetto proprio stilato, scritto per 6 mesi, e quindi dovremo finire a novembre. I ragazzi lo sanno, contiamo di poterlo prolungare, però ovviamente dobbiamo fare anche un attimo con quelle che sono le forze interne, nel senso che sulla carta siamo in 8 e cerchiamo di andare sempre sul campo almeno in 3. Poi capita che si va anche in 2 e quindi facciamo anche delle riunioni abbastanza spesso per capire quali sono le forze, diamo la disponibilità tipo il martedì, tipo il venerdì. Non è facile perché, come hai detto tu, l'onda dell'entusiasmo a un certo punto per alcune persone viene a calare, e quindi bisogna anche capire chi crede veramente in questa cosa che sta facendo e che vuole portarla avanti. Per cui ci siamo dati questi 6 mesi per vedere sia la risposta dall'altra parte, sia quanto siamo capaci noi di poter portare avanti una cosa del genere. E poi poco prima dello scadere di questi 6 mesi vedremo, insomma. Ma io spero di portarla avanti per tutta la vita, la verità, personalmente. Grazie Angela. Grazie a voi. Va bene, se non ci sono altre domande, ci stanno altre domande. Ti teniamo un po' in ballo. Giusto sì, per essere chiari, siamo molto flessibili nel come stiamo gestendo la riunione, quindi siccome questo argomento mi sembra che sta prendendo molto interessante anche da un punto di vista, abbiamo un po' più di spazio, quindi se ci sono domande o interventi, continuiamo a parlare che sì. Stanno uscendo un po' molti. Ma più che una domanda, ciao, sono Stefano Stefanil dei Reds. Ciao. carissima. E più che una domanda, è un po' anche qua una condivisione di quella che è stata l'esperienza. Noi abbiamo giocato 2 anni al carcere di Frosinone, che è un carcere particolare perché ha una parte del carcere dedicata al 41 bis e quindi praticamente la quasi totalità della squadra con cui giocavamo erano in carcere per motivi di camorra, 'ndrangheta, mafia e sì. Sì, comunque. Sì, no, scusate se correggo, alta sicurezza, noi 41 non ti fanno giocare al rugby, te lo posso assicurare. Scusami. Alta sicurezza 1, quindi quelli che fuoriescono dal 41 bis e poi c'è anche l'alta sicurezza 3 a Frosinone. Grazie, grazie Pasqua, sì. Sei veramente il super esperto di carcere. Di carcere. Grazie Pasqua, grazie Pasqua. E praticamente noi abbiamo giocato solo 2 anni perché poi vabbè, anche lì è cambiato il direttore e quindi condivido le apprensioni di Angelica sul cambio di direttore e quanto questo poi determini l'approccio. Poi lì influì anche il fatto che ci furono 2 tentativi di evasione e di uno dei 2 era anche un membro della squadra e quindi quella fu un po' la scusa per chiudere il progetto e quindi l'augurio è quello che invece voi riusciate a consolidarlo e anche oltre questi 6 mesi, perché come già è stato detto in precedenza, io ricordo sempre il primo terzo tempo che abbiamo fatto lì, in cui uno dei ragazzi ci disse di come quello era l'unico momento che lui aveva di vita che non riguardasse il carcere. Dice: io riesco a vedere i miei familiari al massimo una volta al mese, perché comunque o erano lontani o comunque c'erano delle restrizioni per le visite. Però anche in quel caso parli sempre o dei problemi che c'hanno loro a casa o del carcere. Dice: quindi questa è l'unica parentesi in cui io non sto in carcere anche se sto dentro al carcere. Quindi grandi, sì. Grandi che siete riusciti a fare questa cosa. Grazie per l'augurio. E poi è vero questa cosa, perché loro sono abituati ad andare dallo psicologo, a fare i cerchi, quando vedono la famiglia parlano sempre dei problemi, e anche noi tornando a questo passaggio che quest'anno noi si sentono in una dimensione diversa, molto più vicina al mondo fuori. Sì, vabbè, allora io provo a chiudere un attimo questa chiamata e vabbè, volevo anche dire 2 cose sul carcere di Forni, dato che dicevi appunto che questa cosa è nata dopo la pandemia, appunto per le rivolte in carcere che ricordiamo sotto pandemia hanno provocato delle morti, e quelle morti sono delle vere e proprie stragi di Stato, ricordiamo il carcere di Modena e tutte le altre carceri che si sono infiammate, insomma. Sotto il Covid anche a Salerno è partito un processo per i reclusi con, se non mi sbaglio, 20 di persone che sono accusate del reato di devastazione e saccheggio, che è quel reato famoso che è tornato in auge dopo la giornata del 15 ottobre del 2011 con delle condanne che sono arrivate tra l'altro l'anno scorso, quindi anche in carcere si è passibili, insomma, di prendersi il reato di devastazione e saccheggio e prendersi delle condanne che vanno... che sono abbastanza alte, partono minimo dagli 8-9 anni. E io invece ti volevo portare un punto di vista un po' differente, ovvero nel senso di una persona che non ha giocato con dei ragazzi in carcere, ma bensì di una persona che era dentro al carcere, ovvero io ho fatto un'esperienza dentro, e nel carcere di Teramo abbiamo provato con un po' di detenuti in maniera autogestita a cercare di tirare su una sorta e di avere uno spazio per allenarci al rugby. Questo perché prima c'erano dei compagni appunto del Teramo Rugby che andavano appunto in carcere a fare degli allenamenti, perché c'era un nostro amico Davide che era stato arrestato per il 15 ottobre lì recluso nel carcere di Castrogno. Abbiamo riscontrato delle difficoltà da dentro, però di sicuro la roba è che quando viene proposta una roba dentro del genere c'è un entusiasmo della Madonna, nel senso, io ho fatto girare un foglio in altre sezioni, poi quando sei in carcere non puoi comunicare con altre sezioni, così i fogli hanno girato e tipo in 20 minuti abbiamo raccolto, che ne so, 52 firme che non contano un cazzo, perché tu c'hai un foglio, metti nome e cognome, metti il nome della cella, dove sei insomma ingabbiato e la persona però mette la firma perché vuole partecipare all'allenamento di rugby. È vero che di quelle 52 persone poi magari molti, soprattutto nei carceri grossi, hanno voglia di fare delle attività perché poi dopo esce fuori la buona condotta e quindi l'educatrice fa una relazione positiva e puoi avere delle misure alternative al carcere e in maniera più rapida, se appunto fai delle attività. È appunto un contesto differente da quello che, dove state facendo attività voi, perché vabbè, l'ICAT è una casa di reclusione, una mezza casa di lavoro, no? Per definitivi lunghi, è piccolino, è a Eboli, in provincia di Salerno fa 33-35 reclusi se non mi sbaglio, cioè magari il carcere di E poi in realtà anche loro hanno queste agevolazioni di buona condotta, insomma, se partecipano ai progetti. Qua si apre proprio tutto un altro mondo, dobbiamo star parlando in alto. Però anche da noi un po' funziona così. Infatti alcuni vengono, pochissimi, perché magari la direttrice prima si era messa nelle orecchie, altri vengono perché gli piace, altri sono per fare, per avere questi bonus, questi benefit, e poi sono rimasti perché gli piaceva. Però funziona un po' così anche essendo più piccolo. Comunque vabbè, per chiudere quello che voglio dire è comunque portare ad esempio anche il rugby, la pallovale all'interno delle sbarre è sicuramente una cosa che è positiva per chi è recluso e cioè crea proprio tanto entusiasmo, anche solo il pensare di poter fare 2 ore all'aria se hai possibilità in un campo. A Teramo il campo era interrato, era il brecciolino, era una merda assurda. Io poi dopo con varie richieste sono riuscito a farmi dare un pallone da rugby, praticamente giocavo da solo, tipo calciando il pallone in avanti cercando di recuperarlo, e gli altri detenuti me lo prendevano, me lo lanciavano via, mi prendevano in giro perché tutti giocano a calcio. Però anche solo lì poi dopo sai, chiacchieri un po', si creano delle situazioni, inizi a fare degli allenamenti insieme. Quindi secondo me questo progetto è portato avanti, ecco, volevo dire, è super importante per le persone che stanno dentro e da paura se continuate a farlo. Speriamo che continuerete dopo la scadenza dei 6 mesi. Sì, anche noi lo speriamo. Grazie. Grazie. Grazie Angelica, grazie Pasca. Penso che possiamo chiudere l'intervento su di ZO e sul. Ciao Angelica, grazie della disponibilità. Tutti. Fate un urlo. Grazie mille. E ci vediamo a fine agosto a Salerno al Beach. Ok, vi aspettiamo. Ciao, grazie. Intanto comunicazione di servizio, c'è la pasta, qualcuno se ne è accorto e ne sta approfittando, bravissimi. Mentre Pasca, tu intanto chiami... No.